Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi, si fa per dire, di questa giornata economico-finanziaria dopo una lunghissima notte elettorale che qualcuno di voi avrà seguito, e tutte le reazioni del mercato, anche se, lo dico subito, rispetto a questa mattina quando ci siamo, per chi era in ascolto, salutati e poi è continuata la lunga diretta appunto di Radio 24, i mercati hanno reagito e stanno reagendo molto meglio di qualunque attesa. Perché lo dico? Perché come alcuni di voi già sanno, questa mattina Tokyo e tutti i futures, cioè le proiezioni sui mercati, erano pesantemente negative. Tokyo alla fine ha portato a casa un calo del 5,36%, però in questo momento Parigi più 0,87%, Francoforte più 1%, Londra più 0,40%, Milano perde lo 0,81%, ma anche qui soprattutto per alcuni titoli bancari, Pop Milano e Banco Popolare. Ma ce ne sono altri, penso a Leonardo Finmeccanica, Buzzi Unici e Metenaris, che guadagnano e guadagnano anche bene. Devo dire che ha chiaramente dato una mano, ed era ovvio che fosse così, il Dow Jones, più 0,36% in questo momento. L'euro su dollaro invece segnala, ma anche qui per essere corretti, nessun tipo di allarmismo, un rapporto di cambio a 1,09. Abbiamo già visto da questo punto di vista un rapporto euro-dollaro a 1,09. Chiaramente parleremo di quello che è successo, soprattutto in chiave delle conseguenze che potrebbe avere sul fronte delle politiche economiche. Già altri programmi, e lo dicevamo anche questa mattina, hanno riconosciuto come le previsioni di tutti, ma questo ormai diciamo diventa quasi storia più che cronaca, di tutti i sondaggisti, di tutti gli analisti, e anche, così lo dico, chi sta scrivendo, non in molti giornalisti italiani, che per carità hanno mille difetti, compreso sottoscritto, ma avremo anche Pratero, che così alcuni chiedono che gli venga riconosciuto l'onore delle armi. Adesso non è che fosse proprio in campagna elettorale per la Clinton, però, tornando al ragionamento di prima, non solo i sondaggisti, non solo gli analisti, ma anche la stragrande maggioranza dei giornalisti, ripeto in questo caso non tanto italiani ma in primo luogo americani, non erano riusciti, come nel caso della Brexit, ha ragione, lo dicevamo anche ieri, attenzione a ricordarsi quello che è successo con la Brexit, mutatis mutandis, nessuno ha avuto la percezione di quanto forte fosse la presenza e l'inclinazione verso Trump in molti stati, tant'è che per chi ha seguito la notte elettorale, come abbiamo fatto noi, c'è stato proprio un momento in cui, adesso non abbiamo tempo di ripercorrerlo, ma tra le 3 e le 3:15 di notte era chiaro in maniera molto sorprendente non solo la resistenza che Trump mostrava in tutti gli stati, anche quelli in cui era dato per nettamente sfavorito, ma anche il testa a testa che poi è andato via via ampliandosi in Florida e in Ohio. Al di là di quello che è stato poi lo sviluppo della serata, il distacco, chiamiamolo così, tra i voti ricevuti da Trump e i voti ricevuti da Clinton, anche se non così forte come quello del 2008 tra Barack Obama e John McCain, però è anche più forte di quello che ci fu per esempio tra George W. Bush e John Kerry nel 2004, quindi è un distacco netto. Su questo non vi possono essere seconde o terze letture. Questa mattina l'intervento di ringraziamento di Donald Trump, per chi l'ha ascoltato, è stato chiaramente più pacato, già in un ruolo, almeno così è sembrato a molti, presidenziale. Chiaramente la frase con cui intanto ha ringraziato Hillary Clinton per la campagna condotta e ha ricordato di voler essere il presidente di tutti gli americani. Stiamo attendendo a questo punto che intervenga, è ormai 2 ore che viene dato, quasi 2 ore, per imminente il discorso di commiato di Hillary Clinton. Le analisi del voto elettorale non appartengono a questo programma, già le avete ascoltate nel corso della giornata e le riascolteremo. Adesso, qualunque sia il motivo, la cosa importante è capire che cosa potrebbe succedere sul fronte, da un lato, dei tassi di interesse americani, perché sappiamo che la Fed a questo punto ha posticipato, diciamo così, la decisione in attesa delle elezioni americane, ma non potrà attendere molto. Il mercato continua a scommettere che la Fed possa aumentare i tassi di interesse. Teoricamente non dovrebbe essere vincolata dal, scusatemi, dall'esito elettorale americano, però sappiamo nei fatti che non è così. E poi politiche commerciali, devo dire che l'unica cosa che resta come dato di questa mattinata sui mercati è il calo profondo che ha avuto il peso messicano nei confronti del dollaro, è arrivato a perdere oltre il 13%, ma soprattutto l'atteggiamento nei confronti delle politiche commerciali, e anche qui sono d'accordo con quelli che scrivono, è indubbio che, a meno che Trump non riveda tutto quello che ha detto in campagna elettorale, vi sarà un inasprimento sulle politiche commerciali, inteso come, alcuni parlano di già neoprotezionismo, non so se sarà neoprotezionismo, ma sicuramente rimessa in discussione degli accordi commerciali, non solo col Pacifico, anche altri, e maggiore attenzione, diciamo, al mercato interno americano e quindi anche ad elementi di carattere protezionistico doganale. Vedremo, avremo tutta l'ora e mezza per parlarne. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, guardate, vedo molti messaggi sull'analisi del perché la Clinton abbia perso. Adesso sì, arriveranno, diciamo, le numerose ipotesi e interpretazioni. Una cosa però, per serietà, dobbiamo dirla: nessuno, ma questo è indubbio, e ripeto, mi rendo conto che molti non abbiano potuto seguire la diretta perché stavano dormendo, ma nessuno, neanche nei commentatori, a un certo momento circolavano anche battute sulla CNN, nessuno dei commentatori è mai riuscito, anche durante la notte elettorale, a dare l'impressione di capire quello che stesse realmente succedendo, se non a cose già fatte. Su questo non ci sono dubbi, e hanno ragione quelli che dicono hanno preso una cantonata tutti gli analisti, hanno assolutamente ragione, è inutile girarci attorno. Fino alle 4 di mattina in molti networks, non solo americani, si diceva ancora testa a testa, quando era in realtà palese che non solo la resistenza di Trump, ma il vantaggio in molti stati di Trump non sarebbe stato colmabile. Avessimo tempo, potremmo ripercorrere alcuni momenti quasi di ilarità, quando si cercava verso le 3:30 di questa notte, con un distacco che andava via via ampliandosi lentamente, ma sempre ampliandosi in Florida. Si cercava di vedere come avrebbero votato alcune contee del sud, adesso me le farò riraccontare da Mario Platero, in cui però, insomma, ci si aggrappava alle contee del sud nella speranza che quei 300.000 voti che dovevano ancora arrivare dalle contee del sud avrebbero modificato radicalmente l'intero approccio. Era però palese che, a meno che uno immaginasse che quei 300.000 voti sarebbero stati tutti per la Clinton e nessuno per Trump, i giochi in Florida erano fatti. Ma perché lo racconto? Perché dava il segnale dello smarrimento, così, della maggior parte degli analisti in quel momento in diretta e in collegamento. Tutto quello che volete. Guardi, sono anche d'accordo per una volta con chi dice scendete dal piedistallo, giornalista del non userei l'epiteto, ma che ci sia stata nei nostri corrispondenti, in chi ha fatto, ma ripeto, anche e soprattutto in quelli anglosassoni americani, una miopia, un presbitismo, chiamatelo come volete, non è in discussione. E adesso arriveremo anche a altre risposte. Nel frattempo, oggi, proprio sul fallimento dei sondaggi, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, a firma del vice direttore Alberto Orioli del Sole 24 Ore. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. Oggi esiste una sola notizia, non si può non parlare della più inattesa, imprevedibile e pazza elezione americana. Su un punto vale la pena di riflettere: il fallimento dei sondaggisti. Sono una categoria professionale ormai destinata alla cassa integrazione. Non hanno indovinato Brexit, non hanno capito nulla delle elezioni americane. Nel sito The Hive un tweet lapidario coglie bene il punto: i sondaggi hanno ormai la stessa accuratezza delle previsioni astrologiche. I grandi sconfitti, oltre ai democratici sostenitori di Hillary Clinton, sono effettivamente i modelli matematici che hanno assicurato per mesi una vittoria larga o di misura, ma comunque certa, proprio a Hillary Clinton. Il New York Times ieri salutava l'Election Day assegnando a Hillary l'85% di possibilità di conquista della Casa Bianca. Analoga conclusione in molti altri siti che usavano sistemi di previsioni proposti dalle varie superstar della statistica a stelle e strisce. Nate Silver, l'ideatore di un sito seguitissimo che si chiama 538, ha sempre concesso a Trump solo una possibilità su tre di diventare presidente, e il suo competitor, Sam Wang, del Princeton Election Consortium, gli assegnava addirittura l'1% di chance di vittoria. Dietro a tutto ciò ci sono algoritmi, formule e calcoli applicati evidentemente su realtà profonde non affatto conosciute. Quelle di un'America del ceto medio impoverito, delle classi emarginate, dei cittadini spaventati da un mondo in fortissimo cambiamento che non sa ancora dire dove andrà a finire. Sono persone che di fronte alle domande dei sondaggisti preferiscono non rispondere o rispondere bugie per camuffare le loro effettive intenzioni di voto. Un paese che un po' si vergogna, quindi, ma che affida al segreto dell'urna tutte le sue frustrazioni, e a pagare il conto purtroppo è il mondo intero. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, dunque, vedo molti messaggi. Ragazzi, parliamoci molto chiaramente. È andata come con la Brexit? Secondo me sì. Mutatis mutandis, nessuno ha capito le reali intenzioni di voto, che poi siano del Midwest piuttosto che del Norfolk o di altre regioni della Gran Bretagna, è poco interessante in questo momento. C'è stata una sottovalutazione dell'elettorato nel caso della Brexit a favore dell'uscita dell'Europa e nel caso di Trump a favore di Trump. Quando tu perdi per 290 grandi elettori Trump e 228 Hillary, non puoi parlare di un testa a testa. Adesso va ben tutto, ma se no parli sostanzialmente di aver cannato qualunque tipo di analisi, e questa è una risposta che devo dare. Qualcuno mi scrive: ma non è che probabilmente avevate la puzza sotto il naso, è la seconda volta che Radio 24 sbaglia? No, guardate che se fosse solo Radio 24 aver sbagliato non saremmo neanche a commentare la cosa. Qui non ci ha preso nessuno. Ora, massimo rispetto, però quando io leggo e cerco di capire qualcosa sulle elezioni americane, mi fido anche della CNN, del CBS, di Fox, per non parlare poi dei giornali, degli analisti. Non ci ha preso nessuno. Orioli raccontava quanto hanno cannato società anche quotatissime nella fase di previsioni. Qualcuno dice: avevate la puzza sotto il naso. Se questo vuol dire incapacità di leggere la pancia dell'elettorato della classe media bianca americana o della campagna della provincia britannica nel caso della Brexit, sì, ma dice, mettiamola anche così, non ci sono problemi. Qualcun altro scrive: ma non sarà successo per Trump quello che capitava in Italia negli anni di dominio della Democrazia Cristiana? Pochi dichiaravano sì, però anche qui attenzione, perché i sondaggisti dovrebbero avere elaborato dei modelli, di solito ci raccontano così, in cui tu vai a correggere questa distorsione, perché si sa che alcuni partiti non vengono detti ma vengono votati. Questo capita, è vero, dai tempi della Democrazia Cristiana, però esistono i modelli statistici per questo, per correggere, sapendo che hai meno, sei meno propenso a dire che voterai per un partito estremo, che sia estrema destra o estrema sinistra, magari anche xenofobi o populisti come sono alcuni in Europa, sei meno propenso a dirlo e poi lo voti. Ma dove sono le correzioni statistiche su questo? Non hanno funzionato, dai. Ecco, una cosa va detta, secondo me anche qui dal punto di vista della correttezza: continuare a evocare la reazione drammatica di tutto il mondo dei mercati finanziari, adesso iniziamo a parlare di mercati, è sbagliato. Nel senso che probabilmente, come nel caso della Brexit, a mio avviso, lo dicevamo ieri con Platero, ha avuto anche un effetto boomerang. Cioè, si faceva la battuta ieri: quando tu vedi che tutta Wall Street è per la Clinton, devi capire come reagisce Main Street, cioè la gente della strada, non la gente che sta a Wall Street. Ancora su questo, continuare a insistere che siamo di fronte a un'apocalisse o a un evento drammatico, a mio avviso vuol dire perseverare nell'errore. Il Dow Jones in questo momento guadagna lo 0,60%, e sulle spiegazioni, se continuo a leggere spiegazioni di qualunque tipo, a me viene in mente solo un bellissimo esempio di una redazione, di una, diciamo, spiegazione che citava qualunque tipo di scusa possibile. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Altri citano la Lega Lombarda negli anni 90, sì, ma siamo sempre allo stesso tipo di ragionamento. Non capisco onestamente, ma veramente non lo capisco, cosa voglio dire, siete una redazione che fa ridere, adesso onestamente, ma se non hanno capito gli americani, col massimo rispetto, ma se per un mese ci hanno tutti raccontato che la Clinton era in vantaggio, i 2-3, addirittura dopo il secondo confronto elettorale i punti erano saliti a 4-5 punti, noi avremo una redazione che la fa ridere, e infatti lei ci segue per ridere. Però non mi sembra che di là dall'oceano abbiano avuto tutte queste capacità analitiche. Dai, su. Poi vogliamo giocare sempre sul provincialismo di casa nostra, giochiamoci. Moria Longo, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dai mercati, però ricordiamo anche, insomma, il passaggio di questa mattina, dopo che Trump, tra l'altro, ha ricordato di aver avuto un colloquio molto cordiale con Obama. Insomma, sono venuto a governare gli Stati Uniti non per creare conflitti, ma per cercare alleanze. Adesso è il momento per gli americani di fasciare le ferite della divisione per tornare insieme. A tutti i repubblicani, democratici e indipendenti in questa nazione, dico che questo è il tempo per noi di tornare insieme come un unico popolo unito. Mi impegno a essere il presidente di tutti gli americani, e questo è molto importante per me. Per coloro che hanno scelto di non votarmi, poche persone, mi rivolgo a voi per la vostra guida e il vostro aiuto, in modo che possiamo lavorare insieme e unificare il nostro grande paese. Allora, abbiamo detto che era sbagliato evocare l'invasione delle cavallette, adesso ne parliamo con Moria Longo. Una cosa la posso dire perché non me ne frega nulla: a me fanno un po' ridere alcuni ascoltatori che si svegliano il giorno dopo e dicono: io l'avevo detto, l'avevo previsto, dovete ascoltare me perché io conosco la gente, sono per strada. Ma cosa conosce? Ma che conosce il Midwest americano? Ma quando ci sono notizie sorprendenti, sono sorprendenti. Che poi lei fosse sicuro che avrebbe vinto Trump, va bene, col senno di poi. Vuole che le faccia lo stesso discorso che avevamo messo in guardia su alcune cose? Ma no, è più serio dire che nessuno l'aveva previsto, di tutte quelle grandi analisi che abbiamo letto. Poi lei, che conosce la strada, la pancia, perché noi siamo, diciamo, a Versailles, invece lei conosce il popolo, bravo, poteva scriverci prima, perché io tutti questi messaggi ieri e l'altro ieri che avrebbe visto Trump non li ho visti neanche dagli ascoltatori, che adesso sono leoni sul web, ok? Allora, ammetto che qua tutti quelli che abbiamo consultato, letto, studiato hanno preso una sonora cantonata, io lo ammetto, però mi dà lezioni da chi conosce la pancia dell'America, la pancia della strada, ma che è sta roba? Andai. Allora Moria, i mercati, altra cosa che va detta, dove c'era stato dell'enorme allarmismo, questo va detto, sulla reazione post Trump. L'unica che l'ha presa, diciamo, male è stata Tokyo questa mattina. Non c'è allarmismo, non mi sembra che si stiano muovendo neanche i mercati valutari. Iniziamo anche da quelli obbligazionari, ma in questo senso le borse, dopo così un po' di incertezza questa mattina, sono tornate a crescere. Parigi guadagna l'1,30, l'unica debole adesso è Milano, meno 0,33, ma per casi abbastanza nostri che si chiamano soprattutto Popolare di Milano e Banco Popolare. Moria. Sì, i mercati sono i primi a non averci preso perché nei giorni scorsi scommettevano su Hillary Clinton, per cui l'abbaglio è stato collettivo. Allora, va detto che i mercati finanziari sono al giorno d'oggi dominati in gran parte da algoritmi, da computer che comprano e vendono azioni in maniera automatica in base ad algoritmi preprogrammati. Gli algoritmi erano preprogrammati per vendere azioni in caso di vittoria di Trump e comprare azioni in caso di vittoria di Hillary Clinton. Questa è stata la prima reazione fulminea e immediata che ha colpito soprattutto Tokyo, perché era la prima borsa che per fuso orario apriva, quelle europee all'inizio proprio in apertura. Gli algoritmi però si muovono molto in fretta, una volta fatta questa prima reazione che era automatica ed era prevedibile, piano piano si inizia un minimo a ragionare. Allora, la cosa che io noto è che oggi tutti i report degli economisti, degli analisti, sono molto più cauti su Donald Trump. Dicono, beh, la sua politica bisogna conoscerla, bisogna iniziare a capire, non si sa come si comporterà la Casa Bianca, bisogna vedere se la sua politica economica sarà positiva o negativa per l'economia, perché per esempio lui è contro, diciamo, avrà un impatto probabilmente negativo sui flussi commerciali, sul commercio internazionale, il che è negativo per l'economia. D'altra parte però lui dice che vuole tagliare le tasse alle imprese, questo invece è positivo per l'economia. Quindi i mercati, dopo una prima reazione, ripeto, puramente automatica degli algoritmi, hanno iniziato a diventare attendisti. Tenete conto che in questo momento i grandi investitori, quelli che veramente ragionano, non si stanno muovendo. Bisogna prima capire che presidente sarà Donald Trump. Per cui rimane, c'è stata questa reazione immediata, appunto automatica degli algoritmi, poi un rimbalzo conseguente. A questo punto resta completamente aperta la partita, perché la visibilità sul futuro è assolutamente bassissima, non soltanto sul futuro americano ma anche sul futuro europeo, che al quale aspetta una lunga tornata elettorale in Francia, in Germania, anche il nostro referendum, quindi l'incertezza politica è alta. Quindi diciamo che i mercati sono qui a vedere cosa succede. Ecco, una cosa hanno ragione gli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666, quelli che scrivono, diciamo, come col seno di poi. Anche i mercati finanziari, non dimentichiamolo, avevano reagito in quel modo. Faccio un esempio: quando 3 giorni fa l'FBI è tornata leggermente sui suoi passi, noi abbiamo visto crescere Dow Jones e tutta la spiegazione è stata: bene, la Clinton sta riprendendo un suo vantaggio. Questo a dire che tutto il posizionamento, anche lì da pecoroni, ma va bene. Quello che io contesto, dico chi sta scrivendo, è che noi abbiamo tirato la volante alla Clinton, ma capirai che cavolo gliene frega gli americani di quello che pensa Radio 24, che poi ci fosse una sensazione collettiva, un'analisi collettiva, che la Clinton fosse in netto vantaggio, ma è agli atti, non è che scopriamo cose di nuovo, ma non è che aspettavano Radio 24 nell'Ohio o nel Massachusetts per votare, ok? Onestamente. Però che anche tutta la borsa, Moria, si fosse orientata in quel modo, tant'è che 3 giorni fa, 3 sedute fa, abbiamo visto quella reazione molto forte, è un dato di fatto. Adesso forse si stanno ricoprendo, si stanno ricorreggendo, ma insomma il messaggio era abbastanza indicativo. Poi alcuni mi scrivono era un modo per influenzare l'elettorato. Può essere che i mercati finanziari con questi scossoni volessero provare a mettere paura all'elettorato, come è avvenuto nel caso della Brexit, come alcuni dicono si rischi nel caso del referendum del 4 dicembre italiano. Sono d'accordo, a mio avviso è sempre sbagliato minacciare con Wall Street la Main Street, però Moria. Allora, i mercati finanziari sono, ripeto, molto più semplici da capire di quanto non si immagini. Allora, nei giorni scorsi, qualunque economista, analista, trader, usciere di borsa, diceva il seguente sillogismo: se vince Trump la borsa sale, se vince Hillary la borsa scende. Era proprio un binomio fatto. Se vince Trump la borsa sale? No, scusate, il contrario. Se vince Trump la borsa scende, addirittura c'è una stima addirittura dell'11%, così, scusate, sì, è stato un errore. Se vince Hillary Clinton la borsa sale. Quindi nei giorni scorsi, a seconda di come cambiava, per esempio con l'inchiesta dell'FBI, questa probabilità, i mercati si muovevano di conseguenza. Allora, dal momento in cui c'è questo binomio che era accertato e tutti ne erano convinti, è ovvio che chi imposta le strategie per il primo impatto della mattina, quando le borse aprono, le strategie che possono essere molto spesso, ripeto, computerizzate, impostate su algoritmi, imposta le strategie di borsa in base a questo binomio. Quindi se nel caso di vittoria di Trump gli algoritmi erano subito pronti a vendere, nel caso di vittoria di Hillary gli algoritmi erano subito pronti a comprare. Subito dopo entra la testa umana, che inizia un minimo a valutare, sì, testa eccetera. Umana, in questo hanno ragione gli ascoltatori, con le cantonate prese, diciamo. Certo, però dal momento in cui c'è, per cui per questo io separo la reazione immediata, quella proprio automatica, e la reazione successiva, che poi sono iniziate le ricoperture e si inizia a essere più possibilisti, perché oggettivamente cosa Donald Trump farà alla Casa Bianca non lo sa nessuno, forse neanche lui. Forse neanche lui. Comunque, fai bene a ricordare che poi, dopo gli algoritmi per andare a coprirsi in un modo o nell'altro, sono entrate le teste, chiamiamole così. Devo dire che ha ragione, a mio avviso è interessante quanto scrive un ascoltatore. In realtà il fatto che i repubblicani abbiano vinto anche Camera e Senato e abbiano la presidenza prospetta una stabilità dal punto di vista dei rapporti presidente americano con Camera, Deputati e Senato, e questo sappiamo che dovrebbe rendere più governabile gli Stati Uniti d'America. Vorrei un primo commento però, perché poi Moria Longo ci deve lasciare, se ho ben capito. Invece ringrazio per averci raggiunto in collegamento Andrea Cuturi, vicepresidente di Antilia SGR. Buonasera. Buonasera. Allora, anche un primo commento suo sulla cantonata. Ripeto, non ho nessun problema a riconoscerlo. Basta che non diciamo che la cantonata è dei giornalisti italiani, schiavi del potere. E vabbè, tutto, saremo anche schiavi del potere, non ho capito quale, visto che io tutto sto potere in Italia non lo vedo. Ma qui la cantonata l'hanno preso i grandi indipendenti giornalisti statunitensi a strelle e strisce, da cui sempre impariamo come si fa giornalismo, i grandi quotidiani, i grandi network, le grandi inchieste, tutto quello cavolo che volete, i grandi sondaggisti americani. Quindi, voglio dire, al confronto noi siamo dei dilettanti in ogni caso. Vorrei capire la spiegazione che lei si è data e anche della reazione dei mercati di questa mattina, anche in questo caso contrariamente opposta a quello che ci hanno sempre raccontato. È indiscutibile che il risultato è sorprendente, lo è per noi, ma lo è per l'intera industria. Ho il privilegio di leggere circa 30 case di analisti e una decina di case di asset management, non c'era nessuno che prevedeva ciò che... Oh, lo può ridire, perché sennò sembra che siamo solo noi, capito, che abbiamo la sede del Partito Democratico americano. No, io ho molta simpatia dentro. Poi Platero gli chiederà... Sono convinto che non ha la capacità di influenzare le elezioni americane. Ma Platero, che adesso molti vorrebbero Platero... Ma Platero, a parte Platero il fatto che... Vota per una persona. Sì, a parte che adesso, voglio dire, se io fossi Trump adotterei Platero, poi glielo dirò come amuleto, perché la prima volta che ha votato in America ha vinto Trump, adesso se lo terrà come consulente. Ma adesso lo avremo Platero, okay. Vorrei capire invece quello che lei ci sta dicendo, cioè di tutti i report, immagino di matrice anche anglosassone, che lei ha visto e letto in queste settimane, non ce n'era uno che ipotizzasse la vittoria di Trump. Assolutamente. Ora, come si spiega quello che è successo? Si spiega con un fenomeno che ha nulla a che fare con i mercati finanziari e poco a che fare con i sondaggisti, e cioè la vergogna. Spiego. La vergogna nel dire che avresti votato Trump. Esatto. Sì, certo. Il termine tecnico è quello della bolla silente. È un termine molto tecnico, ma i sondaggisti dicono sostanzialmente se lo scarto è troppo stretto, non sono capace di capire chi mi sta mentendo e chi invece sta dicendo esattamente qual è la sua intenzione di voto. Quindi da questo punto di vista o c'è un distacco sufficientemente ampio o è difficile per noi, per i sondaggisti, capire chi sostanzialmente andrà a vincere. Perché ecco, c'è un'altra ipotesi che vedo circolare, io leggo anche i commenti, al di là di chi insulta per insultare perché sa tutto lui il giorno dopo e va bene, genio della lampada. No, ci sono commenti anche interessanti, per esempio quello che le dice, lo ricordavamo prima, avviene spesso quando tu non vuoi ammettere perché ti vergogni quasi del tuo voto, fai sballare tutte nelle proiezioni, però c'è anche chi dice, in realtà molti volevano non vedere, nel senso c'era quasi un wishful thinking, cioè una voglia di scongiurare l'ipotesi Trump, e quindi nessuno si preferiva credere al fatto che non avrebbe potuto vincere. Beh, diciamo che siamo tutti senza parole, perché io ho dedicato parecchio tempo a queste elezioni quest'anno per capire come sarebbe andato a finire. Sono giunto a delle conclusioni sbagliate, ho dato pubblicamente la Clinton vincente al 70%, quindi evidentemente ho sbagliato. Questo per dire che a leggere il programma economico della presidenza e del programma della candidatura Trump, si giunge alla conclusione che l'uomo è nella migliore delle accezioni un po' confuso. Quindi parlare di dimezzamento del debito con un abbassamento delle tasse e del deficit è come... è un ossimoro. Ma siamo alla BC, però mi rendo conto. Io credo che sia molto importante nelle prossime 4-6 settimane, quindi da qui a poco prima di Natale, quando poi ci sarà all'inizio di gennaio il passaggio di consegne, che la presidenza Trump riesca a costruire intorno a sé un team credibile. Io penso sostanzialmente a due figure chiave: il segretario del Tesoro, quindi colui il quale fa il programma veramente economico e lo mette in execution, e soprattutto un segretario di Stato, quindi un ministro degli esteri. Se la presidenza Obama, che dal mio punto di vista è stata una grandissima presidenza, che ha preso un paese in ginocchio e lo riconsegna in piena forza, a piena occupazione... sul fronte della politica estera mica tanto. Sul fronte, questo era il mio ragionamento. L'unica pecca che forse gli si può fare, e quindi forse qui anche la candidata Clinton ha pagato un prezzo, è quella della politica estera, in particolare in Medio Oriente. E quindi, essendo lei stata per 2 anni abbondanti segretario di Stato, ha pagato questo prezzo. Quindi la seconda figura che reputo importante, evidentemente, come la figura del segretario di Stato, perché il ruolo degli Stati Uniti sta cambiando nel mondo. La presidenza Obama ha sostanzialmente detto al mondo che ha smesso di fare per la terra. Ma guarda adesso, sulle analisi, sul fatto che i democratici a questo punto abbiano sbagliato completamente candidato, sul fatto che sta Clinton stesse sulle balle, possiamo dirlo a questo punto, all'America e anche alla parte dell'America democratica, più di quanto si percepisse, è innegabile, nel senso che ci sono stati un insieme di errori. Qualcuno mi fa notare che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, capofila nel processo di globalizzazione, hanno cambiato idea. Sì, che ci sia un mal di pancia fortissimo, uno scontento fortissimo delle classi medie minacciate dalla globalizzazione con un calo del potere d'acquisto, questo l'abbiamo detto, però attenzione, in queste settimane questo è stato detto, scritto, l'ho letto da qualunque parte come giustificazione del fatto che comunque Trump fosse arrivato alla corsa presidenziale, cioè che dietro a Trump vi fosse una parte importante degli Stati Uniti, della classe media bianca, delusa da tutto un insieme di processi, in primo luogo economici, chiama la globalizzazione, minacciata nel suo potere d'acquisto, nel suo status sociale e quant'altro. Questo l'abbiamo detto e scritto. Nessuno, ripeto, un conto è dire che Trump trae la forza da questo, un conto è dire che Trump stacca la Clinton dandole una mazzata e umiliandola, 290-228, capirai. Mario Longo voleva aggiungere qualcosa prima di lasciarci. No, volevo dire, perché lui ha detto una cosa interessante, cioè che Obama ha creato, durante gli anni Obama, dal 2009 in poi, c'è stata una fortissima crescita economica negli Stati Uniti, con un calo della disoccupazione, il che lascerebbe intendere qualcosa di diverso. In realtà, questo dimostra che la crescita economica di questi anni, anche negli Stati Uniti, dove c'è stata, è stata una crescita economica molto legata al mondo della finanza, che ha creato grandissime disuguaglianze. E ha aumentato il divario. La disoccupazione è scesa, ma anche i salari, anche quindi la qualità della vita media. Quindi bisogna anche ragionare sui modelli economici che stanno, anche quelli che hanno successo. Dove detto, devo chiedere voi attesa, perché sta iniziando a parlare Hillary Clinton, finalmente è arrivata sul palco, dietro di lei Bill Clinton. Bill Clinton ha una faccia un po' triste, Hillary meno, vediamo cosa dirà. Sentiamo un attimo. Thank you. Thank you all very much. Aspettiamo che inizi a parlare Hillary Clinton. Vabbè, aspetta, qui sono. Thank you, my friends. Thank you. Thank you so very much for being here. And I love you all too. Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. Ho fatto le congratulazioni a Donald Trump e mi sono offerta di lavorare con lui a nome del paese. Spero che sarà un presidente di successo per tutti gli americani. Questo non è l'esito che volevamo o per cui abbiamo lavorato duramente, e mi dispiace di non aver vinto questa elezione per i valori che condividiamo e per la visione che abbiamo per il nostro paese. Ma mi sento orgogliosa e provo molta gratitudine per questa campagna eccezionale che abbiamo messo su insieme, perché è stata creativa, è stata a volte caotica, piena di energia, dinamica, ma voi rappresentate il meglio dell'America ed essere stato il vostro candidato per me è stato l'onore più grande della mia vita. I know how disappointed you feel because so che vi sentite delusi, perché anch'io mi sento delusa, e così decine di migliaia di persone che avevano investito le speranze e i sogni in questo sforzo, ed è doloroso e lo sarà ancora per molto tempo. Ma voglio che ricordiate una cosa: la nostra campagna non ha mai riguardato una persona o un'elezione, ha riguardato il paese che amiamo e la costruzione di un'America che sia basata sulla speranza, che abbia un grande cuore e che includa tutti. Abbiamo visto che la nostra nazione è ben più divisa di quello che pensavamo, ma io amo l'America, e se anche voi lo fate, dobbiamo accettare questo risultato e guardare al futuro. Donald Trump sarà il nostro presidente. Noi gli dobbiamo dare l'opportunità di guidare questo paese. La nostra democrazia costituzionale prevede un trasferimento di potere pacifico, e noi vogliamo avere cura che sia proprio così, ma ci sono anche altre clausole nella nostra Costituzione: il rispetto della legge, il principio che siamo nati tutti uguali con la stessa dignità, la libertà di espressione e di religione, il rispetto che noi abbiamo per questi valori ci porterà avanti e continueremo a rispettarli. E vorrei aggiungere che la nostra democrazia costituzionale richiede il nostro coinvolgimento, non ogni 4 anni, ma tutto il tempo. Quindi facciamo tutto quello che possiamo per continuare a portare avanti le cause e i valori che abbiamo a cuore, per rendere la nostra economia un'economia che funzioni per tutti e non soltanto per chi è al vertice, per proteggere il nostro paese, il nostro pianeta, e per abbattere tutti gli ostacoli che ancora molti americani si trovano davanti nel realizzare i propri sogni. Abbiamo passato un anno e mezzo cercando di unire milioni di persone da ogni angolo del paese per avere un'unica voce, per dire con un'unica voce che il sogno americano è grande per tutti, è grande per le persone di tutte le razze, di tutte le religioni, per uomini e donne, per immigrati, per la comunità omosessuale, per i disabili. Quindi adesso la nostra responsabilità come cittadini è di continuare a fare la nostra parte per costruire un'America più forte, più giusta e migliore, e so che voi lo farete. Sono grata di stare qui con tutti voi. Voglio ringraziare Tim Kaine e Anne, sua moglie. It has been a joy getting to know them better, and it gives me great hope and comfort. Sono stata felice di conoscerli meglio. Questo mi dà molto conforto sapere che Tim resterà in prima linea nella nostra democrazia, rappresentandoci al Senato con la Virginia. To Barack and Michelle Obama. A Barack e Michelle Obama, il nostro paese vi deve tantissimo. È molto commossa adesso Hillary Clinton, c'è una standing ovation nella sala. We thank you for your graceful. Noi vi ringraziamo per la vostra leadership determinata, e che ha significato tantissimo per tanti americani, per tante persone in tutto il mondo, e a Bill e Chelsea, a Mark, Charlotte, Aiden, i nostri fratelli e tutta la nostra famiglia. Il mio amore per voi va ben oltre le parole con cui posso esprimerlo. Avete attraversato questo paese a nome mio e mi avete dato conforto quando ne avevo bisogno. Anche nei 4 mesi in cui abbiamo viaggiato, e io sarò sempre grata a questo staff, agli uomini dello staff così devoti e creativi e dinamici che hanno lavorato instancabilmente. Voi avete messo i vostri cuori in questa campagna, per alcuni di voi che sono dei veterani è stata una campagna dopo altre, per alcuni è stata la prima campagna. Io vorrei che ognuno di voi sappia che siete i migliori di qualunque staff di qualunque altra campagna. Va bene, adesso sta andando a ringraziare giustamente i suoi collaboratori. Hillary Clinton, sempre più commossa, era arrivata in maniera un po' più fredda, ringrazio la famiglia e lo staff. Trump deve essere il presidente di tutti. Allora devo lasciare la linea adesso al traffico. Stavo guardando le ultime dichiarazioni di Hillary Clinton, giustamente, ma già veniva accennato prima, c'è chi dice che quello che non si è capito è che i risultati di Obama, Hillary Clinton ha ovviamente ringraziato Obama, Barack Obama e Michelle Obama, però che i risultati economici di Obama, questo devo dire, lo si è letto da più parti in queste settimane, avevano sì creato un ritorno all'occupazione e alla crescita economica, ma all'interno del dato aggregato poi l'occupazione creata non era di buona qualità, i divari erano aumentati, lo abbiamo raccontato in questi anni, il famoso indice di Gini che misura la disparità sociale era aumentato, e ancora, oltre a questo, lavori di qualità modesta, con una finanza a Wall Street che era tornata invece a darsi bonus e quindi a ampliare ulteriormente la forchetta. Detto questo, se però uno vuole essere intellettualmente onesto, tutte queste spiegazioni le avevamo già lette, ascoltate, sentite come giustificazione del perché Trump arrivasse alla corsa per la presidenza e in qualche modo se la giocasse. Nessuno, è inutile fare i fenomeni adesso, nessuno aveva immaginato che alla luce di queste analisi il risultato sarebbe andato come poi è andato, cioè la delusione, l'arrabbiatura, le preoccupazioni della classe media americana bianca l'abbiamo letta in tutte le salse, nessuno aveva capito quanto fosse consistente e quanti anche senza ammetterlo avrebbero poi votato Trump. Errore agitare lo spauracchio delle borse, dei mercati finanziari? Sì, lo dicevamo 2 o 3 giorni fa, e attenzione anche, mutatis mutandis, su quello che sulle cavolate che sento dire sul nostro referendum, state buoni, uno vota sì o no per quello che vale la legge, non iniziate sempre a paventare l'invasione delle cavallette, perché l'effetto boomerang, come è arrivato sulla Brexit e come è arrivato su Trump, è dietro l'angolo, lo dico ai sostenitori del sì. Ogni tanto sento dire che nel caso la vittoria del Nord crollerebbe, state tranquilli, occupatevi del contenuto, non minacciate, perché poi la reazione, come nella Brexit, come con Trump, si vede. Comunque, traffico, e poi torniamo sulla reazione dei mercati. La Clinton ha appena detto non smettete mai di lottare, ma insomma chiaramente adesso inizierà anche tutto un processo interno al Partito Democratico americano che ha cannato completamente la candidatura, dando un senso di vecchio, di continuità quasi da casa regnante, e faccio notare che la Clinton aveva il vantaggio di essere il primo candidato donna. Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, vediamo se riesco a sintetizzare questa domanda e lo chiedo appunto al dottor Couturi. Non è che Wall Street, anzi secondo me è così, la finanza in generale sta così sulle palle che ogni volta che, in questo hanno ragione alcuni ascoltatori, che i democratici americani, devo dire anche da noi, il PD, minacciano invasione delle cavallette, quando non si è d'accordo si vince, e il mercato e la finanza fa sapere che potrebbe crollare tutto, stimola gli elettori a fare esattamente l'opposto, perché state sulle balle, anche i giornalisti non scherzano, ma dico tutti quei, perché dopo il 2008 ancora la cicatrice è aperta e quindi sarebbe meglio stare zitti delle volte, ammesso non concesso che uno avesse più interesse verso la vittoria della Clinton. Ma Questa è una interpretazione che sinceramente faccio un po' fatica a comprendere. Diciamo, direi proprio di no, ecco. Sicuramente la finanza e Wall Street non è diciamo, amata da Main Street. E il rapporto tra le due è sicuramente un rapporto da ricostruire, ma questa è una cosa che va indietro al 2008 e non è una cosa di queste elezioni. La difficoltà che, il, diciamo, che si ha a fare delle previsioni che abbiano una certa consistenza sta nel fatto che c'è, diciamo, ci sono dei comportamenti, in particolare diciamo, degli elettori, di difficile lettura, quello che dicevamo prima evidentemente. Quindi io la relazione tra Wall Street che sta sul cavolo al mondo e quindi si fa quello, il contrario di quello che Wall Street vorrebbe, sinceramente non riesco a... Però, cioè, allora, nessuno sì. investe il proprio denaro sulla base di una cosa del genere. No, ecco. Allora mettiamo così, io invece penso che ci sia un effetto di pancia quando tu vedi i cosiddetti poteri forti stare tutti dalla parte della Clinton, che questo un effetto lo possa aver avuto, con la Brexit ha funzionato così. Detto questo, ma l'autocritica vale per tutti, c'è probabilmente, in questo analizzeremo nelle prossime puntate, un ragionamento da fare un po' più serio del dato aggregato economico, questo bisogna che lo capiamo tutti, cioè la borsa avrà anche ripreso i valori del 2008, il PIL americano sarà anche tornato sui valori del 2008, il problema è che essendo un dato aggregato dentro, vai a vederci dentro e scopri che le disuguaglianze sono aumentate, il trumpismo esisteva anche prima che vincesse, era già un fenomeno, giustamente qualcuno scrive comunque fosse andata, visto il distacco, sarebbe stata comunque una vittoria per Trump, in senso lato, e quindi anche andare a vedere cosa è successo alle politiche redistributive dentro gli Stati Uniti. Sì, hai creato occupazione ma precaria e di bassa qualità, Wall Street è tornata a guadagnare come prima, l'abbiamo raccontato in questi anni, bonus ai manager bancari, ecco dove stanno sulle balle, capisce? Sono tornati ad essere quelli del 2008, nel frattempo l'impoverimento e la paura della classe media americana è andato avanti, guardi che non è molto diverso, ma non ce l'ho con lei, ci mancherebbe, da quello che è successo in Gran Bretagna e da quello che vediamo nella pancia anche nell'area euro. Lo dico perché da questo punto di vista poi non vorrei ricommentare un'altra cosa fra qualche giorno. Grazie, mi dica solo come investirà adesso in una battuta, che sono in chiusura. No, mi scusi, mi chiunque dica. Avesse investito sulla base di questo ragionamento, chiedo scusa, avesse votato Trump sulla base di questo ragionamento, sarebbe un folle, perché questo signore ha 11 prefallimenti alle spalle, ha portato via soldi a centinaia Futuri, di investitori. Ha vinto. Mi dica. Ha vinto. Ha vinto, ok, benissimo. Se crediamo alla democrazia, crediamo anche alla sua vittoria, benissimo. Adesso però questo signore che esce da un reality show, è il caso che ci faccia vedere come si governa un paese. Ma questo vale per questo. Inizia a presentare Scuturi, valeva anche per la... un ministro degli esteri che abbia una sua credibilità. Ci mancherebbe, sennò, valeva anche per la Clinton. Tre giorni siamo giù di nuovo. Guardi, io sono d'accordo. La serietà è richiesta che uno si chiami Trump o Clinton. La Clinton avrebbe dovuto spiegarci cosa c'era in quelle mail, Trump adesso ci deve spiegare cosa ha fatto con l'evasione fiscale e darci una squadra, perché quella della Clinton era un po' più chiara forse. Detto questo, io stavo analizzando anche il perché, lo faremo nei prossimi giorni, la consistenza della delusione americana nei confronti pure di una ripresa economica, si figuri qua che manco l'abbiamo avuta la ripresa, è stata così forte da far vincere Trump. Ma sono d'accordo con lei che poi, che tu ti chiami Trump o Clinton, una volta che vai alla Casa Bianca, fai il serio e dici quale sarà la squadra. Altrimenti questa tregua, in qualche modo, che i mercati stanno riconoscendo, può non durare. Sono d'accordissimo con lei. Grazie anche a Andrea Cuturi, vicepresidente di Antire SGR, GR24. E poi avremo Mario Platero, chiederò a tutti quanti un po' di raccoglimento, un po' di silenzio, di rispetto. C'è un lutto di là dall'oceano, ma ne parleremo dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti. Allora, rapidamente la borsa, tanto la notizia principale l'abbiamo commentata fino adesso, la reazione dei mercati è stata positiva dopo un tentennamento iniziale. L'unica borsa a aver perso in maniera forte è stata Tokyo questa mattina, meno 5,36%, ma adesso l'America guadagna lo 0,80%, Parigi più 1,5%, Francoforte più 1,5%, Londra più 1%, Milano meno 0,1%, quindi anche sul fronte per ora delle previsioni finanziarie gli analisti non hanno beccata una. Dopodiché sono d'accordo con Couturi, che ci ha appena salutato, bisognerà poi vedere che squadra formerà Trump, ma sic tantibus rebus, le borse non solo non sono crollate, non solo non hanno reagito male, sono anche positive, okay? E anche nel rapporto di cambio euro dollaro non stiamo assistendo alla catastrofe. 1,0944 è il rapporto di cambio in cui si muoveva in queste settimane. Tra i titoli, Snam meno 4,5%, Pop Milano meno 3,80% come Mediaset, il Banco Popolare, Atlantia meno 3,40%, Brembo meno 2,90%, Enel meno 2,30%, Fiat Chrysler meno 2,20% come Terna, UbiBanca perde il 2%. Buzzi Unicem invece guadagna l'8%, e qui un commento ve lo do, anche perché va bene tutto il settore delle costruzioni. Leonardo Finmeccanica più 7,60%. Ancora, devo dire che vanno bene tutti i titoli legati oggi al settore difesa. Evidentemente si immagina che Trump, a mio avviso sono solo speculazioni, comunque che Trump possa portare avanti una campagna di investimenti nel settore difesa. Tenaris più 6,5%, Saipem più 5,70%, CNH pure, Recordati più 4,30%, Prismian più 3%, Azimut più 2,90%, Generali più 2,20%. E allora, i migliori e peggiori, Bibliotech più 13%, Salini in pregiro, oltre a Buzzi Unicem più 7,70%, e poi abbiamo detto di Leonardo Finmeccanica bene, anche Fincantieri più 5,60%. Fronte opposto, Italgas meno 7%, Landi Renzo meno 6,30%, Innovatec meno 5,5%, TAS meno 5,5%, Fiera Milano meno 5%. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E adesso torniamo sull'analisi del voto, non solo quello che è successo ai mercati e non solo, a mio avviso, un effetto anche boomerang, che certi ricatti, possiamo chiamarli così, o previsioni che potevano sembrare tali, se vince Trump sarà la fine del mondo, possono aver avuto un effetto boomerang. Adesso però vorrei anche un po' di comprensione, di sensibilità, di calore umano, di empatia. Tuo fa l'americano, americano, americano, scende a me chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Allora, un momento di raccoglimento, è tutta la notte che scherzo con lui, quindi permettetemi di continuare con Mario Platero. La sua prima esperienza di voto è diventato il più grande amuleto per Trump, che lo rivorrà sempre. Mario Platero, come stai innanzitutto? Ma devo dirti, Sebastiano, sto forse meglio di te in questo momento. Beh, sicuramente, visto gli insulti che stiamo ricevendo come categoria. Però... infatti vorrei ricordarti, Sebastiano, perché poi tu forse non leggi bene il nostro giornale, no, ma, infatti. Il quotidiano ovviamente, essendo impegnato con la radio, ma circa un anno fa feci un'intervista, una chiacchierata con Donald Trump, il quale devo dire fu molto amichevole, e parlò di Berlusconi e parlò dell'Italia, e parlò dell'Italia in modo molto affettuoso. Credo che sia rimasta l'unica intervista che Trump ha fatto parlando del nostro paese, perché poi si è occupato naturalmente di molte, molte altre cose. E dunque direi, come i mercati oggi mostrano di avere nervi straordinariamente saldi, io credo che Donald Trump abbia mostrato di aver capito qual è il messaggio vero che deve portare, perché sono sicuro che il discorso che lui ha fatto ieri sera, un discorso straordinariamente moderato, è un Donald Trump che non abbiamo mai visto, ovviamente il Donald Trump presidenziale e non il Donald Trump in campagna elettorale, è stato un discorso che ha rassicurato i mercati, ha teso la mano a Hillary Clinton, ha chiesto a quelli che sono stati i suoi nemici di lavorare con lui. Ecco, alla fine credo, Sebastiano, quello che è prevalso è il messaggio dell'inclusione di questa democrazia americana. Ieri sera questo messaggio c'è stato, ieri notte, nella lunga notte che poi abbiamo vissuto insieme, una notte straordinaria, drammatica, ma devo dire di grandissima emozione, perché poi abbiamo visto la storia, history in the making, come si dice. Ecco, Trump con quel messaggio, è stato dopo quel messaggio che abbiamo visto improvvisamente i future girare. E a questo punto si tratterà di vedere se si riesce a fare il passaggio dalla teoria alla pratica, perché coloro che l'hanno votato, sono dei personaggi ovviamente che vogliono ottenere poi quello che gli è stato promesso. Ma vorrei leggerti un messaggio che ho ricevuto da un importantissimo banchiere, senza fare nomi naturalmente, finanziere diciamo a Wall Street, il quale mi manda una cosa molto semplice, te la leggo in inglese prima, poi la traduciamo. Dice: wake up call to more economic freedom, less government, less regulation, less taxes. Ecco, questo signore è stato uno dei sostenitori della prima ora di Donald Trump, con cui ho a lungo dibattuto qui a New York, e dice: questa elezione è una chiamata, è un risveglio per una maggiore libertà economica, per una minore intrusione del governo, per meno regole e per meno tasse. In effetti questi sono i punti cardini su cui, molto semplici, su cui Donald Trump ha appoggiato la sua campagna elettorale. E la cosa bizzarra è che prima delle elezioni i mercati votavano contro di lui, lo ricordi, no? Abbiamo avuto una straordinaria, incredibile notizia da queste elezioni, che è cessata la disintermediazione dei media, degli analisti, come dicevi tu prima, come l'abbiamo conosciuta finora. Ci avventuriamo in una nuova frontiera, ma l'America resta l'America, caro Sebastiano. Sì, no, su questo però vorrei restare, perché non è dall'inizio del programma che non stiamo girando intorno al tema. L'incapacità di leggere, ripeto, uno può prendersi con i giornalisti italiani, faccio notare che la migliore stampa americana, anche quella conservatrice, non ha azzeccato neanche lontanamente. Qualcuno continua a citare Michael Moore, ho capito, adesso se andiamo a prenderli col lumicino troviamo tutti quelli che per provocazione avevano detto forse vincerà Trump, ma in realtà sondaggisti, analisti, stampa, nessuno aveva colto qui il parallelismo con la Brexit. A mio avviso ci sta, pure sono due temi completamente diversi. Come avrebbe votato in questo caso la classe bianca media del Midwest e con che intensità soprattutto. Vorrei ringraziare anche, per averci raggiunto in collegamento, il professor Daveri, Francesco Daveri, che insegna alla Cattolica di Piacenza. Buonasera professore. Buonasera. Possiamo restare ancora un minuto su questo tema, poi dopo il traffico invece qualche previsione sulla politica economica che metterà che potrebbe mettere in atto Trump alla luce delle dichiarazioni in campagna elettorale. Insomma, questa, Mario Pratero parla di capacità di legge, di disintermediare, insomma questo è la caporetto di qualunque possibilità di lettura. Gli ascoltatori dicono: siete troppo liberal, troppo elitari, troppo Long Island, troppo nella vostra torre d'avorio, quello che volete, però insomma mi sembra che qualunque media americano non ci abbia pigliato se non qualche sito. Sì, io devo dire che avevo cominciato a diventare un po' più nervoso, ammetto che avrei preferito che vincesse la Clinton, fin da subito, insomma, lo dico, e sono diventato un po' più nervoso quando ho visto quell'appello di 340 economisti che dicevano che Trump sarebbe stata una sciagura per l'economia. Ecco, ogni volta che noi economisti ci mettiamo a fare un appello, anche noi non è che portiamo tanto buono, ecco, anche se ci mettiamo dei Nobel, eccetera, eccetera. Quindi quello era un segno del fatto che proprio tutto l'establishment era ben schierato contro Trump. Allora mi è venuto in mente la Brexit, ecco, però adesso questo. Poi siano altre ragioni più solide per la vittoria di Trump, al di là ecco, della, vorrei sentirle opinioni. Dopo il traffico, con questo però appunto Mario Pratero, a mio avviso, come con la Brexit, quando gli economisti, la finanza, prima Couturi si è un po' seccato, ma la finanza, il mondo che gestisce i risparmi, le banche d'affari, dice attenzione, sarà il diluvio, votate X, secondo me dà una grossa mano all'altro candidato. Cioè, io prima ho detto stanno sulle balle, in realtà il tema è un po' più profondo, il recupero dell'attività produttiva negli Stati Uniti è avvenuto comunque con un impoverimento di una parte sociale e un ulteriore vantaggio di un'altra parte sociale identificata appunto con Wall Street, banche d'affari, grandi centri metropolitani, luoghi di potere e quant'altro. Dopo il traffico la risposta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora iniziamo, perché lo continueremo anche nei prossimi giorni. Mario Pratero, però non giriamo attorno al tema. Qua nessuno dei tuoi colleghi americani, nei corrispondenti americani, è mai arrivato vicino a una previsione del genere. Tutti sapevamo che Trump traeva la sua forza dalla classe media delusa americana, da una ripresa economica che però è stata fatta con posti di lavoro di scarsa qualità, continuiamo a dirlo anche oggi, con Wall Street che è tornata a darsi bonus e la classe media che si sente a torto, secondo me anche a ragione, è sotto attacco. Però nessuno era arrivato neanche lontanamente. Non è che si può fare anche un po' di autocritica, che forse anche il sistema degli analisti, dei sondaggisti, dei centri di studio, dei giornalisti, dei media americani da cui noi traiamo informazione, non voleva vedere, non se lo voleva augurare, frequenta solo salotti, più Wall Street che Main Street, non so, dimmelo tu. Allora, guarda, no, non credo che sia questo, non credo che sia una questione di elitismo, perché poi non è che i giornalisti frequentino solo salotti. La questione è, come dicevamo prima, è che proprio è saltato un modello. Questa è una cosa straordinariamente importante, credo, per tutti noi. Pensa, ti do un dato, 356, mi pare, giornali americani, quindi la stragrande maggioranza, hanno appoggiato Donald Trump e hanno fatto il pronostico che Donald Trump avrebbe vinto. Soltanto 9 giornali hanno fatto un pronostico, diciamo, cautamente ottimistico per Donald Trump e si sono schierati con lui. Il Wall Street Journal, Rupert Murdoch, sappiamo che Rupert Murdoch è un conservatore e simpatizza con il Partito Repubblicano, non ha capito quello che stava capitando. Il Wall Street Journal vende in tutta America e in profondità. Ecco, tutto è stato scavalcato da internet, è stato scavalcato dai Twitter di Donald Trump. Non dimentichiamolo, Donald Trump è stato preso in giro perché alle 3 del mattino si scatenava e faceva dei tweet con delle battute a volte acide, a volte aggressive, eppure è questa la disintermediazione che poi alla fine ha funzionato. Ma però questo, funzionato per lui. Scusami, questo però dovrà portare anche a breve a una necessaria autocritica sulla nostra professione, sulla professione dei sondaggisti, sulla professione degli analisti, perché se poi, e posso essere d'accordo con te, la disintermediazione fa sì che sia più importante un social network, i social networks, rispetto all'analisi, allora buttiamo a mare le analisi e occupiamoci dei social networks, perché oggettivamente, io non ho problemi a dirlo, questo è la Caporetto di tutti, ma non lo so se perché l'orientamento della cosiddetta industria culturale sia più a sinistra che a destra, ma è comunque una Caporetto. Daveri, vorrei sentire anche lei su questo. Ma io no, capisco, questo probabilmente è una componente e questo deve fare certamente riflettere un po'. Più che in statistica si calcola la speranza matematica, che vuol dire l'attesa usando le informazioni relativamente a un certo evento. Quello che invece la maggior parte degli osservatori ha fatto è di calcolare la speranza e basta in questi giorni, cioè speravano che vincesse Hillary Clinton e non Trump, si chiama wishful thinking, candidato sgraziato, diciamo, quindi che non andava bene. Però al di là di questo, cioè, però, ci sono degli aspetti più sostanziali che sono stati in effetti ignorati e che però forse guardandoli qualche cosa dicevano. Cioè, io nei giorni scorsi mi sono trovato a guardare, forse con un po' di ritardo, quali erano le proposte fiscali di Trump per le famiglie e oltre a quella per le aziende e per i redditi di impresa, che era più nota, da 35 a 15% il taglio delle tasse, per le famiglie. C'erano un sacco di milioni di americani che guadagnavano dalle proposte di Trump, cioè riduzioni dal 15% allo zero dell'aliquota tra chi guadagnava $9,000 and $29,000, tra i $29,000 and $54,000 una riduzione al 12% di aliquota anziché il 15% e il 25%. Questi sono numeri, questi sono dollari lasciati nelle tasche della gente. Quindi questa è una cosa molto oggettiva. Quindi la cosa che dobbiamo chiederci è: come mai dei dati che erano disponibili nel programma elettorale sono stati ignorati completamente? Io penso che ci fosse la volontà di, in alcuni casi, quando toppi così clamorosamente, se un po' come certi, è brutto dirlo, ma certi innamorati, c'era una non volontà di vedere, di accettare che un personaggio obiettivamente pittoresco come Trump potesse vincere in un paese così. Quindi si diceva: bene, lui rappresenta lo scontento della classe media americana, però poi alla fine vincerà la persona più seria e preparata, ammesso e non concesso che fosse Hillary Clinton. Mario Patero, è solo l'inizio, perché continueremo nei prossimi giorni, ma vorrei riagganciarmi al tema di Davey. Qual è l'elemento, adesso entriamo nei contenuti, dei piani politici di Trump dal punto di vista economico che può avere inciso in maniera più forte? Davey citava le tasse federali sulle imprese dal 35 al 15%, ridurre le aliquote da 3 a 7, o l'atteggiamento invece più protezionistico, rigettare i trattati con i paesi del Pacifico, rinegoziare il NAFTA sui prodotti importati dal Messico, non a caso il peso ha perso oggi il 10%, aprire un contenzioso con la Cina sul WTO, cioè tornare a riproteggere in maniera protezionistica l'America, più le tasse o il protezionismo? È un insieme ovviamente di queste varie proposte. Sicuramente la parte fiscale ha avuto un impatto, in quella classe media che si sente vessata da questa situazione. Devono lavorare, capito, due volte, due stipendi per arrivare alla fine del mese, almeno pagano meno tasse su questi due stipendi, che purtroppo dovranno continuare a prendere se vorranno arrivare alla fine del mese, perché poi le cose non cambieranno overnight. Il rischio per Trump è quello poi di uno scontro con la realtà, perché non dimentichiamo che se siamo dove siamo, se c'è la protesta continua contro chi è all'establishment, basta arrivare. Chi è l'establishment? L'establishment è semplicemente chi in un certo momento è al potere, e dunque non ha importanza chi sia al potere, è quell'establishment che diventa l'oggetto, capito, dell'attacco. Dunque non è soltanto la parte fiscale, è anche la parte delle regole. Ha promesso di eliminare una gran quantità di regole, ma ha colpito perché Donald Trump, quando l'ho seguito nei comizi, anche in giro per l'America, continuava a ripetere: ma lo sapete cosa mi dice la gente? Mi dicono: ma finalmente ci togli queste regole, noi siamo una piccola azienda, l'America ha anche una gran quantità di piccole aziende come abbiamo noi, e quindi non ce la fanno andare avanti per la burocrazia, per l'intrusione dello Stato. Ecco, forse aveva ragione lui, e forse c'erano questi piccoli incontri che lui faceva su base locale che alla fine si sono moltiplicati, hanno avuto l'impatto che hanno avuto. Però vorrei aggiungere una cosa, scusa, sì, sul dibattito che facevamo prima sulla questione della stampa. Non è vero, non sono d'accordo con Daverio su quello che diceva prima. Non è che chi scrive pensando quello che vuole, perché dietro il nostro mestiere ci sono delle tecniche, e l'analisi dei sondaggi è un'analisi straordinariamente complessa sul piano della statistica. Purtroppo ci siamo fidati al primo livello dei sondaggisti, che di nuovo in modo univoco, non c'era un sondaggio, ci sono 340 sondaggi e sondaggisti in America, e ciascuno esprimeva una direzione, e dunque dal punto di vista tecnico alla fine la scienza, la razionalità, come dire, noi siamo abituati a pensare che prevalga, e dunque non è un wishful thinking. I giornalisti americani che hanno scritto paginate e paginate. Ce n'erano alcuni che lo facevano, io adesso era una convinzione che oggi non c'è più. Devo chiudere e vi riavrò ospiti. Intanto anticipo chi continua a chiedermi che venerdì, al di là della classifica, tornerà anche il mitico uccellaccio Sapelli. Non oso pensare cosa ci dirà su queste elezioni. Sono d'accordo, l'abbiamo detto in apertura, attenzione, diamo la responsabilità ai sondaggisti, agli analisti, quello che vogliamo. Temo però, Mario, che vi fosse anche una non voglia di dire: beh, tanto è impossibile che con quello che dice Trump, con quello che promette, con anche le contraddizioni della sua campagna elettorale, ridurre il debito, ridurre le tasse, possa vincere uno come Trump. In realtà bisogna a ogni livello, a mio avviso, fare un po' di autocritica sulla capacità di analisi, fermo restando che quando ti becchi 360 sondaggi tutti che danno la vittoria della Clinton tra il 2 e il 5% di scarto, è ovvio che poi anche su quello ti basi. Però insomma, un po' di riflessione, i sondaggisti a questo punto è meglio che si trovino un altro lavoro. Però insomma, potremmo andare avanti anche con le categorie con la massima modestia possibile. Intanto grazie a Mario Platero, grazie a Francesco Daveri che riavremo ospite. So che chi mi sta per seguire ha fatto una promessa, immagino che in caso di vittoria di Trump, immagino che anche di questo si parlerà. Io vi do solo in questo momento l'andamento del mercato finanziario americano, più 0,90%, però la Wall Street non solo ha i nervi saldi, sta anche comprando, e quindi un'altra previsione che si sta per ora rivelando sbagliata. L'auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.